stare vicini come bambini. La felicità, felicità, felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, è la pioggia che scende dietro alle tende. La felicità è abbassare la luce per fare pace. La felicità, felicità, felicità è un bicchiere di vino.